Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. La volta che mi riuscì di passarci davvero, di là dal muro di cinta del barchetto del Duca, e di spingermi fra gli alberi e le radure della gran selva privata fino a raggiungere la Magna Domus e il campo di tennis, fu assai più tardi, quasi 10 anni dopo. Si era nel 38, a circa 2 mesi da quando erano state promulgate le leggi razziali. Ricordo bene, un pomeriggio, verso la fine di ottobre, pochi minuti dopo esserci alzati da tavola, avevo ricevuto una telefonata da Alberto Finzi Contini. Era vero o no, mi aveva chiesto subito, trascurando ogni preambolo, notare che non avevamo avuto occasione di scambiar parola da più di 5 anni, era vero o no che io e tutti gli altri, con lettere firmate dal vicepresidente e segretario del Circolo del Tennis Eleonora d'Este, Marchese Barbicinti, eravamo stati dimessi in blocco dal club, cacciati via, insomma? Smentii recisamente. Non era vero. Non avevo ricevuto nessuna lettera del genere, almeno io. Ma lui, immediatamente, come se ritenesse la mia smentita priva di valore, o come se addirittura non fosse stato ad ascoltare, a propormi di andare senz'altro da loro, a giocare a casa loro. Se mi accontentavo di un campo di terra battuta a bianca, ripeté, con scarso out, se soprattutto, dato che io giocavo sicuramente molto meglio, mi fossi degnato di fare 4 palle con lui e Micol, ambedue loro ne sarebbero stati ben lieti e onorati. E tutti i pomeriggi erano buoni se la cosa mi interessava, aveva aggiunto. Oggi, domani, dopodomani, potevo andare quando volevo, portando con me chi volevo e anche il sabato, naturalmente. A parte il fatto che lui si sarebbe trattenuto a Ferrara almeno un altro mesetto, giacché i corsi al Politecnico di Milano non sarebbero cominciati prima del 20 novembre, Micol se la prendeva sempre più calma di lui, solitamente, e quest'anno, con la storia che era fuori corso e non aveva bisogno di star lì a mendicare firme, chissà se a Ca' Foscari ci avrebbe mai messo piede. Non vedevo che splendide giornate. Finché il tempo resisteva, sarebbe stato un vero delitto non approfittarne. Pronunciò queste ultime parole con minore convinzione. Pareva che, d'un tratto, fosse stato sfiorato da un pensiero poco lieto, oppure che un repentino quanto immotivato senso di noia gli avesse fatto desiderare che io non andassi, non tenessi conto del suo invito. Ringraziai, senza promettere nulla di preciso. Perché quella telefonata? Mi chiedevo, non senza stupore, riagganciando. In fondo, da quando lui e la sorella erano stati mandati a studiare fuori da Ferrara, Alberto nel 33, Micol nel 34, intorno agli stessi anni in cui il professor Ermanno aveva ottenuto dalla comunità il permesso di ripristinare, per uso della famiglia e degli eventuali interessati, l'ex sinagoga spagnola incorporata nello stabile del Tempio di Via Mazzini, sicché il banco dietro al nostro, a scuola italiana, da allora in poi era rimasto rigorosamente vuoto, in fondo non ci eravamo più visti che rarissime volte, e sempre di sfuggita e di lontano. Eravamo diventati talmente estranei durante tutto quel tempo che una mattina del 35, alla stazione di Bologna, facevo già il secondo anno di lettere e andavo su e giù col treno tutti i giorni, essendo stato urtato violentemente lungo la banchina di fianco al primo binario da un giovanotto alto, bruno, pallido, con un plaid sotto il braccio e un facchino carico di valigie alle calcagna, il quale si dirigeva a gran passi verso il Rapido di Milano in procinto di partire, sul momento non avevo minimamente riconosciuto in lui Alberto Finzi Contini. Raggiunta la coda del treno, si era voltato a sollecitare il facchino, sfiorando nello stesso tempo me, che mi ero girato per protestare, con un'occhiata distratta e sparendo quindi dentro il vagone. Quella volta là, continuavo a pensare, non aveva nemmeno sentito il bisogno di salutarmi. E adesso? Perché mai tanta insinuante cortesia? «Chi era?» domandò mio padre, non appena fui rientrato in tinello. Nella stanza Non era rimasto che lui. Sedeva in poltrona accanto al mobiletto della radio, nella abituale e ansiosa attesa del notiziario delle due. Alberto Finzi Contini. Chi? Il ragazzo? Che degnazione! E cosa vuole? Mi scrutava coi suoi occhi azzurri, smarriti, che da molto tempo ormai avevano perduto la speranza di impormi qualcosa, di riuscire a indovinare quello che mi passasse per la testa. Lo sapeva bene, lui, mi diceva con gli occhi, che le sue domande mi infastidivano, che la sua continua pretesa di ingerirsi nella mia vita era indiscreta, ingiustificata. Ma santo Dio, non era mio padre? E non vedevo quanto fosse invecchiato in quell'ultimo anno. Con la mamma e con Fanny non era il caso che si confidasse. Erano donne. Con Ernesto nemmeno, troppo putin. Con chi doveva parlare allora? Possibile che non capissi che aveva bisogno proprio di me. Gli riferii a denti stretti di che si trattava. E tu? Ci vai? Non mi diede il tempo di rispondergli. Di seguito, col calore da cui lo vedevo animarsi ogni volta che gli si offriva la possibilità di trascinarmi in una conversazione qualsiasi, meglio se di argomento politico, si era già buttato a capofitto a fare il punto della situazione. Purtroppo era vero, aveva cominciato a ricapitolare, instancabile. Lo scorso 22 settembre, dopo il primo annuncio ufficiale del 9, tutti i giornali avevano pubblicato quella tale circolare aggiuntiva del segretario del partito che parlava di varie misure pratiche di cui le federazioni provinciali avrebbero dovuto curare l'immediata applicazione nei nostri riguardi. In futuro, fermi restando il divieto dei matrimoni misti, l'esclusione di ogni giovane riconosciuto come appartenente alla razza ebraica da tutte le scuole statali di qualsivoglia ordine e grado, nonché la dispensa per gli stessi dell'obbligo altamente onorifico del servizio militare, noi giudei non avremmo potuto inserire necrologi nei quotidiani, figurare nel libro dei telefoni, tenere domestiche di razza ariana, frequentare circoli ricreativi di nessun genere. Eppure, nonostante ciò, spero che tu non voglia ripetermi la solita storia, lo interruppi a questo punto scuotendo il capo. Quale storia? Che Mussolini sia più buono di Hitler? Ho capito, fece lui. Però devi ammetterlo, Hitler è un pazzo sanguinario, mentre Mussolini sarà quello che sarà, machiavellico e voltagabbana finché vuoi, ma... Di nuovo lo interruppi, senza riuscire a frenare un gesto di impazienza. Era o non era d'accordo? Gli domandai piuttosto bruscamente, con la tesi del saggio di Leone Trotsky che gli avevo passato qualche giorno prima. Mi riferivo a un articolo pubblicato su un vecchio numero della Nouvelle Revue Française, rivista di cui in camera mia custodivo gelosamente parecchie annate complete. Era successo questo. Non rammento per quale ragione m'era capitato di trattare mio padre con sgarberia. Lui si era offeso, aveva messo su broncio, di modo che io, desideroso di ristabilire al più presto rapporti normali, non avevo trovato di meglio che renderlo partecipe della più recente delle mie letture. Lusingato da questo mio segno di stima, mio padre non si era fatto pregare. Aveva subito letto, anzi divorato l'articolo, sottolineando col lapis moltissime righe e coprendo i margini delle pagine di fitte note. In sostanza, e me l'aveva dichiarato esplicitamente, lo scritto di quella buona lana dell'antico amicone di Lenin era stato anche per lui un'autentica rivelazione. «Ma certo che sono d'accordo!» esclamò, contento di vedermi disposto ad avviare una discussione, e insieme sconcertato. «Indubbiamente Trotsky è un magnifico polemista. Che vivacità! Che lingua! Capacissimo di aver steso l'articolo direttamente in francese!» «Già!» e sorrise con orgoglio. Gli ebrei russi e polacchi saranno magari poco simpatici, però hanno sempre avuto un vero genio per le lingue. Ce l'hanno nel sangue. Lascia stare la lingua e badiamo ai concetti, tagliai corto, con una punta di acredine professorale, di cui subito mi pentii. L'articolo parlava chiaro, seguitai più pacatamente. Il capitalismo, in fase di espansione imperialistica, non può che mostrarsi intollerante nei confronti di tutte le minoranze nazionali e degli ebrei in particolare, che sono la minoranza per antonomasia. Ora, al lume di questa teoria generale, il saggio di Trotsky era del 31, non bisognava scordarsene, l'anno in cui era cominciata la vera e propria ascesa di Hitler. Che cosa importava che Mussolini come persona fosse meglio di Hitler? E poi, era veramente meglio Mussolini anche come persona? Ho capito, continuava a ripetere sommessamente mio padre mentre parlavo. Stava con le palpebre abbassate, il viso contratto in una smorfia di dolorosa sopportazione. Infine, quando fu ben certo che non avessi altro da aggiungere, mi posò una mano sopra un ginocchio. Aveva capito, ripeté ancora una volta, riaprendo lentamente le palpebre. Comunque, lo lasciassi dire. Secondo lui, io vedevo troppo nero. Ero troppo catastrofico. Perché non riconoscevo, infatti, che dopo il comunicato del 9 settembre e perfino dopo la circolare aggiuntiva del 22, le cose, almeno a Ferrara, erano andate avanti quasi come prima? Verissimo, ammise, sorridendo con malinconia, durante quel mese, fra i 750 membri della nostra comunità non si erano verificati decessi di tale importanza che fosse valsa la pena di darne notizia sul Corriere Ferrarese. Non erano morte che due vecchiette dell'ospizio di Via Vittoria, salvo errore, una Saralvo e una Rietti, e neppure Ferrarese quest'ultima, ma proveniente da un paese del Mantovano, Sabbioneta, Viadana, Pomponesco o qualcosa di simile. Però siamo giusti. Il libro dei telefoni non era stato ritirato per essere sostituito da una ristampa purgata. Non c'era stata ancora Avertà, cameriera, cuoca, balia o vecchia governante a servizio presso qualcuna delle nostre famiglie, la quale, scoprendosi improvvisamente una coscienza razziale, avesse davvero pensato a far fagotto. Il circolo dei commercianti, dove da oltre 10 anni la carica di vicepresidente era coperta dall'avvocato Lattes, e che lui stesso, come pur dovevo sapere, continuava a frequentare indisturbato quasi ogni giorno, non aveva a tutt'oggi preteso dimissioni di sorta. E Bruno Lattes, il figlio di Leone Lattes, forse che era stato espulso dal circolo del tennis, per caso? Senza alcun pensiero per mio fratello Ernesto, il quale, poverino, stava sempre lì a guardarmi a bocca aperta, a imitarmi, come se fossi chissà che gran aham, io avevo smesso di andarci, al circolo. E facevo male, glielo lasciassi dire. Facevo molto male a chiudermi, a segregarmi, a non veder più nessuno, per poi, con la scusa dell'università o dell'abbonamento ferroviario, svignarmela a Bologna 3 o 4 volte alla settimana. Neanche con Nino Bottecchiari, Sergio Pavani e Otello Forti, fino a un anno fa miei amici inseparabili, neanche con quelli volevo stare, qui, a Ferrara. E sì che loro, ora uno, ora l'altro, si poteva dire che non lasciassero passare mese senza telefonarmi, poveri ragazzi. Guardassi invece il giovane Lattes, per favore. A quanto risultava dalla cronaca sportiva del Corriere Ferrarese, non soltanto lui aveva potuto partecipare regolarmente al torneo sociale di chiusura tuttora in fase di svolgimento, ma nel doppio misto, giocando in coppia con quella bella ragazza dell'Adriana Trentini, la figlia dell'ingegnere capo della provincia, stava andando benissimo. Avevano superato facilmente 3 turni ed ora si preparavano a disputare la semifinale. Ah, no! Tutto poteva dirsi del buon Barbicinti, che tenesse troppo ai propri modesti quarti di nobiltà, per esempio, e troppo poco alla grammatica degli articoli di propaganda tennistica che il federale gli faceva scrivere ogni tanto per il Corriere Ferrarese, che fosse un galantuomo, tuttavia, niente affatto ostile agli ebrei, assai blandamente fascista. E dicendo fascista, la voce di mio padre ebbe un tremito. Un piccolo tremito di timidezza. Su questo non c'era né da dubitare né da discutere. Quanto poi all'invito di Alberto e al comportamento dei Finzi Contini in generale, cos'era adesso, di punto in bianco, tutto questo loro agitarsi, tutto questo loro quasi spasmodico bisogno di contatti? Era già stato abbastanza curioso quel che era successo la settimana scorsa al Tempio, per lo Shoshana, Io non c'ero voluto venire, al solito, e una volta di più, avessi pazienza, avevo fatto male. Sì, era già stato abbastanza curioso, proprio quando la funzione era al culmine e i banchi apparivano più gremiti, scorgere a un tratto Ermanno Finzi Contini, la moglie e la suocera, seguiti dai due figlioli e dagli inevitabili zii Herrera di Venezia, l'intera tribù, insomma, senza alcuna distinzione fra maschi e femmine, fare il loro solenne reingresso a sinagoga italiana dopo ben 5 anni di sdegnoso isolamento in quella spagnola, e con certe facce poi, soddisfatte e benigne, né più né meno che se avessero inteso con la loro presenza premiare e perdonare non solamente gli astanti, ma tutta quanta la comunità. Questo comunque non era bastato, era chiaro. Adesso arrivavano al colmo di invitare gente a casa, al barchetto del Duca, figuriamoci, dove fin dall'epoca di Josette Artom nessun concittadino e forestiero aveva più messo piede se non in occasioni di stretta emergenza. E volevo sapere perché. Ma perché erano contenti, evidentemente, di quello che stava accadendo. Perché a loro, alti, come erano sempre stati, contrari al fascismo, va bene, ma soprattutto alti, le leggi razziali facevano in fondo piacere. E almeno fossero stati dei buoni sionisti allora. Almeno, visto che qui in Italia e a Ferrara ci si erano sempre trovati talmente a disagio, talmente in prestito, avessero approfittato della situazione per trasferirsi una buona volta in Erez. E invece no. Più che tirar fuori ogni tanto un po' di soldi per Erez, niente di straordinario in ogni caso, di più non avevano mai voluto fare. Loro, le somme vere, avevano sempre preferito spenderle in aristocratiche futilità, come quando nel 33, per trovare un Eal e un Parochet degni di figurare nella loro personale sinagoga, autentici arredi sefarditi, per carità, e che non fossero portoghesi o catalani o provenzali, bensì spagnoli e di misura adatta, si erano spinti in macchina con dietro un Carnera niente meno che a Cherasco, in provincia di Cuneo, un paese che fino al 10 o giù di lì era stato sede di una piccola comunità ormai estinta e dove soltanto il cimitero era rimasto funzionante per via che alcune famiglie di Torino, originarie del luogo, De Benedetti, Momigliano, Terracini, continuavano a seppellirci i loro morti. Anche Josette Artom, la nonna di Alberto e di Nicole, ai suoi tempi importava continuamente palme ed eucaliptus dall'orto botanico di Roma, quello ai piedi del Gianicolo, e per questo, allo scopo che i carri ci passassero con tutta comodità, ma anche per ragioni di prestigio, neppure il caso di dirlo aveva imposto al marito, quel povero Menotti, di allargare la breccia d'ingresso del muro di cinta del barchetto del Duca, in modo che il portone risultasse grande almeno il doppio di ogni altro di corso Ercole I d'Este. In realtà, a furia di far collezioni, di cose, di piante, di tutto, si finisce a poco col voler farle anche con le persone. Ma se loro, i Finzi Contini, rimpiangevano il ghetto, era nel ghetto, evidentemente, che sognavano di vederli inchiusi tutti quanti, disposti magari, in vista di questo bell'ideale, a lottizzare il barchetto del Duca per farne una specie di kibbutz sottoposto al loro alto patronato, liberissimi, facessero pure. Lui, ad ogni buon conto, avrebbe sempre preferito la Palestina. E meglio ancora della Palestina, l'Alaska, la Terra del Fuoco o il Madagascar. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.